Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Laboratorio dove si producono particole alla periferia nord di Milano e quelle che sentite sono le voci e i rumori delle persone che lavorano qui. Questo però non è un luogo di lavoro qualsiasi, intanto perché il laboratorio nasce all'interno di un locale, un ex nightclub sequestrato alla criminalità organizzata, e poi perché le persone che lavorano qui sono al loro primo vero impiego. Sono donne che hanno alle spalle storie faticose, fatte anche di violenza e gravi difficoltà economiche, donne accolte dalla comunità creata da Fondazione Arché, che dà sostegno a mamme con bambini, come ci spiega Valentina San Gregorio, che per Arché si occupa dell'area lavoro. In Arché crediamo che il lavoro sia uno degli obiettivi fondamentali affinché le donne accolte nei nostri servizi, dopo un periodo lungo in comunità, possano raggiungere l'autonomia assieme al proprio bambino. Attraverso la collaborazione con i vari enti del territorio di Milano, in realtà profit e no profit, cerchiamo di realizzare progetti di inserimento lavorativo. In questo contesto è nata la collaborazione con Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e la partecipazione al progetto Il Senso del Pane, con l'obiettivo di realizzare quindi un nuovo laboratorio eucaristico nel quale produrre le ostie fossero le nostre donne. Il laboratorio è il secondo su Milano, il primo è stato realizzato nel 2016 nel carcere di Opera ed è proprio un giovane detenuto formato nel primo laboratorio a formare a sua volta le nostre mamme. Qual è l'impatto? Per Cristiano sicuramente un'opportunità di ricostruirsi e avere la possibilità di riscattarsi. Per le nostre donne, ognuno di loro ha storie diverse. Le ragazze assunte nel laboratorio sono tre. Per una è stato un riavvicinarsi al mondo del lavoro dopo tanto tempo, per altre invece è stato il primo contratto di assunzione firmato e ciò sicuramente comporta una riabilitazione, soprattutto per una di loro, un recupero della dignità e autostima persa e dimenticata a causa di situazioni difficili e negative vissute negli anni. Il laboratorio delle ostie è un'idea nata da Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti di Arnoldo Mosca Mondadori. I primi a beneficiare della possibilità di questo impiego sono stati dei detenuti del carcere di Opera. Cristiano è stato uno di loro. Oggi è in regime di semilibertà ed insegna alle donne accolte da Arché. Fragilità che si incontrano, amicizie che nascono e percorsi che aiutano e salvano. Sta andando bene? Sì, sì, bene. Cristiano, cosa stai facendo qui? Cosa stai insegnando? Sto insegnando alle ragazze a produrre le particole, le ostie, perché le ho fatte già all'interno di un carcere per 5 anni. E adesso si è avviato questo laboratorio all'esterno per continuare questa strada che ho intrapreso già all'interno. Mo adesso che stai facendo così, non sto facendo bene, no? Sì. Però tu fai piano piano che diventi più brava, no? Però la proposi proprio. Ah, ok. La stai sempre così. Tu all'interno del carcere hai fatto un corso per imparare a fare le ostie? Sì, ho fatto proprio un laboratorio, era vero e proprio, di produzione di particole. Ho imparato da zero e sono rimasto là per 5 anni. Sono diventato poi il responsabile di quel laboratorio, eravamo in 4 a lavorare là, e adesso ho stato ammesso al lavoro all'esterno e vengo qua 2 giorni a settimana per formare le ragazze a fare le ostie. Se uno guarda le ostie delle particole come una cialda da gelato oppure come un lavoro come un altro, non sto facendo niente di straordinario, però se pensa che questa ostia una volta consacrata diventerà il corpo di Cristo, quindi il significato è molto importante. Chiedevo delle cose a Dio di darmi la possibilità di fare un qualcosa per Lui, per rimediare un po' ai miei errori passati. E così di un tratto uscì fuori questo corso di ostia, questo laboratorio, e fui scelto tra 1500 detenuti. Per me è stato come una risposta, no, alle mie preghiere. E quindi, visto che io chiedevo di fare un qualcosa di giusto o un qualcosa per Lui, questo delle ostie era come il massimo, no? Cioè formare il corpo di Cristo. Più di così non poteva capitale. E il fatto di venire, di uscire quindi anche adesso dal carcere, venire qui a insegnare, ti piace? Cos'è che ti dà? Mi dà tanta soddisfazione, no? Che fino a pochi giorni fa sembrava un sogno di uscire dal carcere, che comunque mi manca ancora un pochettino per finire definitivamente. E mi dà soddisfazione e allo stesso tempo fierezza, no? Sono fiero di me stesso e della strada che ho intrapreso, perché non è facile, a volte ci sono alcune persone che se tu testimoni il bene o la fede sembra quasi che ti prendano in giro, no? Come questo ragazzo, io fino a ieri faceva il bullo, adesso è diventata una femminuccia, ma non è così. Ci vuole molto coraggio, secondo me, più a fare una cosa del genere che a fare le cose sbagliate. Non ci vuole niente. Dal posto in cui vengo, cioè dal carcere, anche se uno non ha pazienza, si diventa paziente. Perché sei abituato 24 ore su 24 a condividere, a convivere con altre persone, quindi devi essere per forza paziente, no? Non puoi perdere la calma così ogni 5 minuti. Quanti anni hai? 34. Questa occasione che ti è stata data da Arche o comunque da questo laboratorio, la vedi proprio come, diciamo, la prosecuzione? Quando uscirai vorrai proprio fare questo? Certo, sicuramente farò un qualcosa di giusto, mai più cose sbagliate. Sono molto grato io ad Archea, ad Arnoldo, Mosca Mondadori che mi hanno dato questa possibilità e che hanno creduto in me e ci hanno fiducia in me. Non è facile oggigiorno trovare delle persone che credono e hanno fiducia in te. E quindi il massimo che posso fare, quello che posso fare, cercare di non deludere queste persone qua. Cristiano, le persone che tu sappia lo sanno da dove vengono le ostie? Sì, lo sanno. Chi spedisce le ostie mandava un po' una parte della storia da dove provengono queste ostie, che sono dalle mani degli ultimi il pane della vita, cioè chi ha avuto un tempo le mani sporche di sangue, che eravamo in tre all'inizio, che tutti per reati gravi, per omicidio. E da mani un tempo sporche di sangue, le ossa della misericordia, cioè questo era, che voleva far capire alle persone che anche la persona che si è macchiato degli uno dei più atroci delitti, no? Poteva essere perdonato, e quindi che il perdono è per tutti. E veniva spiegato un po' tramite una lettera questo messaggio, e quindi lo sapevano, penso che ancora tutt'oggi lo sanno da dove, chi fa l'ordine sul sito per avere le ostie sa da chi vengono prodotte e sa un po' di storia. Nella seconda parte sentirete le voci delle donne che attraverso questo lavoro stanno conquistando l'autonomia e la possibilità quindi di riprogettare il proprio futuro. A tra pochissimo. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Cosa fai? Guardi che si formano dopo questa aero di va via, lascia 2-3 secondi e dopo lo apri, lo gira. Ma anche le porzioni, come fai a mettere la porzione giusta? Fomochi, sì. Siamo in un laboratorio di Ostia che dà lavoro a donne provenienti da situazioni difficili, mamme con bambini ospitate da Fondazione Arché e che stanno riprogettando la loro vita immaginandola possibile, serena, normale. Cristiano è l'unico uomo in questo laboratorio gestito da Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e Fondazione Arché. Siamo alla periferia nord di Milano. Cristiano ha imparato a fare le particole in carcere ad opera e oggi in regime di semilibertà insegna a queste donne, mamme con storie simili, spesso segnate da violenza subita e da difficoltà economiche e soprattutto dalla paura di perdere i propri figli. Sono stata 2 anni in comunità, 2 anni e mezza, adesso sono in semi-autonomia con mia figlia che è quasi 3 anni. Sono venuta qua perché è un lavoro che mi piace, anche di ragazzi che sono qua sono ok. Cosa stai imparando a fare qui? Di ostie. Quindi adesso tu cosa fai? Metti la pastella? Spiegaci un po'. Cristiano ne ha imparato a fare l'impasto che si fa con acqua e farina per non usare altri con spezie o da così. Dopo si fa dentro, si lascia per diventare ostie, dopo si cuoce quasi un minuto. Senti, tu in prospettiva come ti vedi con un lavoro, una casa? Raccontami un po' qual è il tuo sogno. La mia prospettiva, io sì, volevo mia figlia diventare grande. Una vita normale? Normale, sì, sì, sì. Adesso c'è questo lavoro, piano piano vediamo. Tu sei ancora dentro in comunità, sì, d'Arché? Sì, sono in semi-autonomia. Quindi hai una casa? Una piccola casa che io con mia figlia, sì, sono semi-autonoma. Ed è vicino alla fondazione, giusto? Sì, sì, c'è una corte che c'è 16 appartamenti per mamme e bambini. Semi-autonomia cosa vuol dire? Che tu hai la casa, però loro ti aiutano magari con il cibo, con le spese? No, ma spesa posso fare io o sono ancora, dipende di loro, c'è un chef di questa casa che viene da noi, parla con noi, ne aiuta, cerca lavoro, fa tutti gli appuntamenti per dottore, per scuola, per tutti questi posti. Quindi vuol dire che nel momento in cui tu avrai un lavoro fisso... Sì, posso andare fuori, sì. Hai voglia di andare fuori? Jain, no, sì, perché di là sono tutti buoni, una parte sì, una parte no. Hai voglia della libertà, ma hai paura anche che questa libertà sia troppo faticosa? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Cosa stai imparando a fare? La particola, l'ostia. Tu stai, è una specie di timbro questo qua, sì. Cos'è che fai? Sì, è una pressa che forma le particole. Tagli proprio la cialda? Sì. Anche tu sei dentro Fondazione Arché? Sì. Sì, ho una bambina piccola di 1 anno e 3 mesi e niente, un po' di difficoltà, però spero che con l'aiuto della comunità riesco a raggiungere gli obiettivi, insomma. Perché sono stata da una segnalazione, l'assistenza sociale mi ha trovato questa comunità. Avevo un po' di problemi nel sociale più che altro. Ero da poco tempo qua a Milano e facevo fatica a trovare l'appartamento. E adesso in Fondazione Arché cosa hai trovato? È una tua piccola casa o sei dentro nella parte diciamo più aperta dove si sta con gli educatori? Sì, noi siamo in centro e abbiamo una stanza e siamo tutti insieme. Sono felice che sono insieme alla bambina. E non te l'hanno tolta? Sì. Perché hai avuto paura che te la togliessero? Sì. Io ho 3 figli, sono in comunità, con me due bambine, un'altra bambino, un'altra comunità, lui un'altra comunità, lui 16 anni, uno 7 anni, un'altra 5 anni e mezzo. Tu da quanto sei dentro Fondazione Arché? Da quasi 3 anni. Il bambino, quello di 16 anni, il ragazzo di 16 anni, lo vedi? Sì, io vedo una volta a settimana. Adesso io stai facendo il rientro a casa, stai facendo il rientro, perché prima avevo difficoltà e l'assistenza sociale mi ha portato a che? Avevi difficoltà economiche, di fatto? Economico, perché io ero sola. E quindi adesso tu stai cercando di trovare a tutti i costi un lavoro per ricomporre tutta la famiglia a casa? Sì. Anche ragazzo, sì. Penso che io trovi un altro lavoro ancora, così per completato, perché 2 volte a settimana questo lavoro è poco per me. Io vorrei trovare un altro lavoro, così guadagno abbastanza. Ti ha aiutato molto stare dentro Fondazione Arché? Ti ha rinforzato? Sì, molto, molto, molto, tanto. Loro mi ha aiutato tanto, molto, per parlare con le altre donne, per trovare un'altra mentalità, per imparare tante cose, imparare a vedere le altre mamme, come loro fanno. Anche Papa Francesco ha consacrato queste ostie una metafora di trasformazione anche per chi non crede in Dio, ci dice Arnoldo Mosca Mondadori, uno dei sostenitori del progetto. Questo progetto con Casa Arché nasce all'interno del progetto Il Senso del Pane, che è nato nel 2015 all'interno del carcere di Opera, dove alcune persone detenute sono state coinvolte nella produzione di ostie. Ecco, mani che avevano commesso delitti hanno iniziato a preparare il pane che poi è stato donato e continua a essere donato a tutte le chiese che ne fanno richiesta. Anche Papa Francesco ha consacrato queste ostie e si vede in questo progetto in qualche modo il paradosso dell'amore divino, nel senso che da mani che hanno commesso dei gravi errori fino alle mani del sacerdote, e quel pane diventa Dio. Dio per chi ci crede, ma è una metafora anche di trasformazione per chi non ci crede. E poi il progetto si è ampliato a tante realtà nel mondo, ad altre fragilità, non solo a persone detenute, e in questo caso a madri, a donne che hanno alle loro spalle delle grandi fragilità, delle grandi sofferenze, e vivono ancora la sofferenza e la fragilità. Ecco, l'idea che siano proprio loro a poter fare con le loro mani il pane che diventerà Gesù è anche qui un grande segno, un segno importante secondo me per la città di Milano. È Gesù che arriva dalla periferia, è quella chiesa in uscita di cui parla Papa Francesco. Non è tanto l'idea di una chiesa che si vuole chiudere in se stessa, ma di una chiesa che ha bisogno delle povertà, delle fragilità per poter vivere, per poter respirare. Diario termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.